le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Mercati ed economie europee guardano la BCE, che oggi potrebbe annunciare le prime mosse per contrastare la deflazione e la bassa crescita. Meteorologa, l'ospedale, le regioni approvano all'unanimità le linee guida. L'ospedale Careggi di Firenze parte questa mattina. Se l'Iraq chiede aiuto, la NATO è pronta, dice il segretario generale Rasmussen. Si apre oggi il vertice in Gran Bretagna, al centro anche l'Ucraina. Scuola ed è subito sciopero. I sindacati autonomi proclamano uno stop il 17, a due giorni dall'apertura. Ospite tra poco il ministro dell'istruzione Giannini, mentre si infiamma in questi minuti la polemica sul blocco dei contratti e degli stipendi degli statali. Camusso dice che è incomprensibile. Bonanni dice: ci mobiliteremo. Alluvione nel Foggiano, evacuate centinaia di persone. Esonda un fiume, a rischio una collina sulla quale si trovano 30 case. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, le altre cose che vi racconteremo in questa puntata, naturalmente come sempre il Festival del Cinema di Venezia, come sempre in questi giorni, e poi andremo a vedere come si prepara la nazionale di calcio all'appuntamento di questa sera contro l'Olanda. Iniziamo però dall'economia e dalla Banca Centrale Europea. Oggi una riunione del direttivo molto attesa, potrebbero essere le prime decisioni per contrastare le ipotesi di deflazione. Ci colleghiamo con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Innanzitutto buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno a voi. Abbiamo caricato di un po' troppe aspettative la riunione di oggi? Ma forse è stato lo stesso Draghi a caricarla di aspettative, nel senso che nel suo discorso a Jackson Hole alla fine di agosto ha fatto balenare la possibilità di nuovi interventi oltre a quelli decisi già nel mese di giugno. Ricordiamoli allora, abbassò i tassi, ma anche decise di fare delle operazioni di fornitura di liquidità alle banche condizionate alla concessione di credito all'economia reale, e aveva adombrato anche la possibilità di acquistare titoli cartolarizzati, e un'altra misura in sostanza per cercare di sbloccare il credito. Credo che sia su questo punto che oggi ci si possa aspettare da Draghi che dia qualche dettaglio in più di quello che ha detto finora, anche perché nel frattempo la BCE ha nominato un consulente, la società finanziaria americana BlackRock, proprio su questo punto, i titoli cartolarizzati cosiddetti ABS o ABS. E questo è l'elemento forse principale. C'è poi una remota possibilità che la BCE abbassi di nuovo i tassi, ma ricordiamo che il tasso principale della BCE oggi è allo 0,15%, e quindi una misura di questo genere avrebbe impatto soprattutto attraverso un calo dell'euro. Sì, l'unico margine appunto in questo caso sarebbe di portarli sostanzialmente a zero. Allora Alessandro Merli, noi torneremo a collegarci con te in chiusura di trasmissione subito dopo America 24, perché come sapete le decisioni della BCE tradizionalmente arrivano alle 13.45, e quindi faremo un punto della situazione. Sempre a proposito di situazione economica europea, questa mattina all'Europarlamento ha parlato il presidente uscente dell'Eurogruppo Dijsselbloem rispondendo agli eurodeputati. We have entered a different phase of the crisis. Siamo entrati in una fase differente della crisi, lo avete sentito, che richiede di concentrarci sulla crescita, ha detto, con un mix di politiche di bilancio e la possibilità di sostenere gli investimenti nel rispetto delle regole, e quindi una posizione di maggiore apertura rispetto a quelle passate. Se i paesi chiedono più tempo per consolidare i conti, bisogna accertarsi che quel tempo non sia sprecato e venga usato per fare le riforme. Così Dijsselbloem dunque. Veniamo all'Italia. Dopo le decisioni di ieri delle regioni, o meglio di oggi, in merito alla fecondazione eterologa, oggi partono anche all'ospedale Careggi di Firenze, iniziano ad arrivare le prime coppie. Alessandra Schepisi per un punto, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Intanto appunto è ufficiale, l'eterologa di fatto può partire con le stesse regole in tutti i centri pubblici italiani. La conferenza delle regioni ha ratificato all'unanimità le linee guida sulle quali si era trovata un'intesa ieri nella conferenza delle regioni, un documento che di fatto scavalca governo e Parlamento rimasti immobili in questi mesi dopo la sentenza della Consulta. Tra i punti, ricordiamo, c'era la gratuità e il pagamento di un ticket per tutte le donne fino ai 43 anni, il donatore che rimane anonimo ma le regioni regioni chiedono al Parlamento di decidere sulla possibilità di risalire all'identità in età adulta e i figli che dovranno avere lo stesso colore di pelle della coppia ricevente. Ma intanto oggi appunto al Careggi sono cominciate già le prime visite delle coppie che intraprenderanno questo percorso. Tantissime le prenotazioni, le telefonate arrivate, come abbiamo anche potuto constatare chiamando proprio il centralino. Sentiamo. Azienda ospedaliera universitaria Careggi, gli operatori sono momentaneamente occupati, vi preghiamo di attendere in linea per non perdere la priorità acquisita. Buongiorno, ambulatorio, sono Sabrina. Sì, buongiorno, volevo sapere se era possibile prenotare un appuntamento per l'eterologa. Sì, abbiamo aperto un ambulatorio, c'è il primo accesso e come data siamo al 19 di marzo. Ah, così tardi? Sì, perché è richiestissimo questo. Il 19 di marzo alle ore 9 la mattina. Ed Elisabetta Cocce, la responsabile del centro di procreazione assistita al Careggi, poco fa ha raccontato la sua emozione per questo primo giorno di eterologa. Sentiamo. I sorrisi e lo sguardo finalmente di chi ha un vissuto, che vede un'altra possibilità di speranza, di andare avanti e di avere una gravidanza. Io sono emozionata, sono però anche quella che nell'88 ha fatto sì che qui ci fosse il primo bambino da PMA, da ragazzina, girando il mondo per renderlo possibile. E quindi questo è un proseguo e mi fa ancora più piacere, devo dire. E veniamo adesso al vertice NATO, nel quale il dossier più caldo è certamente quello ucraino, ma naturalmente si parlerà anche di Iraq. We welcome all efforts to find a peaceful solution. Quello che sentite è Rasmussen, il segretario generale della NATO, ha detto tra le altre cose che sono sicuro se il governo iracheno presentasse una richiesta di assistenza alla NATO gli alleati la valuterebbero seriamente. Ancora il canale di dialogo politico tra la NATO e la Russia è aperto, vertice che si apre appunto al quale ci sono anche il presidente del Consiglio Renzi e Federica Mogherini nel suo ruolo in realtà in questo caso di ministro degli esteri, perché come rappresentante, alto rappresentante europeo per la politica estera è solo designata, però insomma sicuramente un vertice importante. Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno Gerardo. Buongiorno a voi. Il Premier Renzi è arrivato questa mattina ed è adesso nella riunione a 5, quindi con Barack Obama, con Angela Merkel, François Hollande e David Cameron, insieme all'ucraino Poroshenko. È una riunione che sta per concludersi, ovviamente al tavolo dei 5 si sta discutendo appunto le possibilità di questa tregua con la Russia. È presente nella sala, ma non è seduto al tavolo, anche il segretario di Stato americano Kerry. A seguito, dopo questa riunione, si terrà una colazione con al centro la discussione sulla exit strategy per l'Afghanistan. Poi nel pomeriggio altra sessione di lavoro, mentre alla sera, questa sera, si terrà la cena con la discussione sull'Iraq. Domani mattina il summit riprenderà alle 9.30 con la prima riunione del Consiglio Atlantico vero e proprio, mentre nella seconda ci sarà l'atto conclusivo, quindi con la dichiarazione finale dei capi di Stato e di Governo. All'atere di questa riunione i ministri della difesa Pinotti e degli esteri Mogherini avranno incontri con i loro omologhi dei paesi della NATO. Per la Mogherini si tratta anche un po' di un battesimo come lei di pesca, anche se entrerà, come sapete, in funzione soltanto il 1 novembre. E grazie Gerardo Pelosi, naturalmente torneremo ad aggiornarci con te nel corso della giornata per sapere come procedono i lavori. A proposito di organizzazioni internazionali, interessante, sicuramente farà notizia, la proposta dell'ex presidente israeliano Shimon Peres al Papa. L'ONU ha fatto il suo tempo, quello che ci serve è un'organizzazione delle religioni unite, un'ONU delle religioni è il modo migliore per contrastare i terroristi che uccidono in nome della fede, lo ha riferito a Famiglia Cristiana, riportando appunto che una delle cose che ha detto al Papa. Inizio di anno scolastico con sciopero. La campanella squillerà il 15 settembre, come sapete, nella maggior parte delle scuole. Il 17 appunto ci sarà la prima agitazione. Ad incrociare le braccia per tutta la giornata il personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato di Unicobas Scuola. Anche di questo parleremo tra poco con il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che sarà nostra ospite. Per quanto riguarda il blocco dei salari degli statali, ci sono le notizie che vi stavamo dando poco fa, le dichiarazioni che arrivano dal segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, dice: non comprendiamo la logica per cui si continua a prorogare il blocco dei contratti. Più duro Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, che dice: ci mobiliteremo in tutta Italia, spiegheremo a tutti la situazione, visto che si usano i guanti bianchi per le municipalizzate e la mannaia sui dipendenti pubblici. È intollerabile. C'è una vicenda della quale si sta parlando in queste ore a proposito di politica economica, in questo caso di politica economica locale, è quella del sindaco di Positano, Michele De Lucia, che ha deciso di non mettere la TASI. Sentiamolo, intervenuto questa mattina, ospite di Alessandro Milan a 24 Mattino. Perché l'ha cancellata questa TASI? Per me è una tassa iniqua, è una tassa che il governo centrale ha voluto delegare ai sindaci, quest'altra tassazione, per mascherare quelli che sono le esigenze del governo, che trasferisce sempre meno agli enti locali. A quanto ammonta, cioè a quanto rinuncia tagliando la TASI? Diciamo che la TASI, applicando i termini massimi che ci dà il governo, avremmo riuscito a prendere anche 1,2 milioni. È chiaro che troveremo le risorse in altro modo, principalmente tagliando quello che è la spesa corrente, come abbiamo fatto già in questi 4 anni. Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva delle delibere che stabiliscono l'aumento delle tariffe per l'accesso alle zone a traffico limitato di Roma. Per ora quindi gli aumenti dei permessi restano in vigore. La richiesta di sospensiva era stata avanzata dal Codacons. Ci spostiamo a Venezia, al Festival del Cinema, per capire cosa succede oggi con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone, proprio buongiorno qui davanti al Palazzo del Cinema di Venezia. Oggi è la giornata di Pierpaolo Pasolini e di Pasolini, il film che gli ha dedicato Abel Ferrara. Diciamo subito, qualche applauso in proiezione stampa, qualche timido applauso per un film che racconta l'ultima giornata di Pierpaolo Pasolini, morto il 2 novembre 1975. Pasolini, interpretato da Willem Dafoe, nel film ci sono anche Riccardo Scamarcio nel ruolo di Netto Davoli, giovane, Valerio Mastandrea che fa il cugino Nico Naldini, Maria De Medeiros nei panni di Laura Betti, il ruolo della madre del poeta ed è di Adriana Asti. C'è anche lo stesso Netto Davoli che mette in scena l'ultimo film di Pierpaolo Pasolini, quello che lui stesso non è riuscito a girare. E lo so, mi chiederai a questo punto com'è questo film. È difficile giudicarlo, proprio perché immaginati quanto può essere rischioso cercare di mettere in scena una storia così tragica e così viva nella memoria anche di chi in realtà non c'era in quel periodo, ma che l'ha vissuta nell'immaginario popolare. Il film ha molte cose commoventi, molte cose emozionanti, purtroppo un po' straniante il fatto che gli attori recitano parzialmente in italiano, parzialmente in lingua in inglese, recitano in inglese ad esempio Valerio Mastandrea, insomma non sono così disinvolti. In italiano verranno doppiati e Willem Dafoe in italiano verrà doppiato da Fabrizio Gifuni. Questo per quanto riguarda il Pasolini di Abel Ferrara. Allora Marta, io intanto ti ringrazio per questa cronaca e noi adesso continuiamo a parlare di cinema, ma non cinema europeo, non cinema americano, ma cinema indiano, perché c'è un matrimonio del quale si parla da tutta l'estate che riguarda Bollywood e che però si svolge in Puglia. Nonostante le misure adottate per renderlo blindatissimo, smartphone vietati, clausole di riservatezza per i fornitori, profili Instagram oscurati, in alcuni casi filtrano le prime immagini del matrimonio in stile Bollywood da 10 milioni di dollari in scena in questi giorni in Puglia, a Savelletri di Fasano. spettacolo pirotecnico da grande evento. Del resto, a dirigere il tutto c'è la società abituata a gestire le cerimonie inaugurali olimpiche, scenografia imponente che promette anche leoni, elefanti e gorilla. 800 invitati per 10.000 pasti in 4 giorni, il matrimonio di Ritika e Ruan. La prima è la terzogenita del magnate indiano del ferro Pramod Agarwal, rischia di diventare un caso politico. A pochi chilometri da qui sono nati Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò ancora bloccati in India. Inopportuni i festeggiamenti indiani, fa notare un pezzo di Politica e Opinione Pubblica. Criticatissimo il sindaco sospeso di Fasano, Lello Di Bari, che ha partecipato al primo mega party. La sua replica: quando c'è stato da prendere posizione nei confronti del governo indiano, ho fatto manifestando a favore dei marò, ho partecipato in forma privata come amico di famiglia e credo che questo non possa essere uno scandalo. Dal 2010, grazie alle riprese del film campione di incassi Houseful, la Puglia in India è famosissima. Mamma mia! Allora, buongiorno Al Pacino! Welcome signorita, welcome to Puglia, the most romantic, the most beautiful place in the world! Inutile storcere il naso, la promozione del territorio passa anche da qui. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a chiudere questa prima parte di Effetto Giorno mi ha raggiunto Carlo Getta. Ciao Carlo. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Stasera in campo la nazionale, dunque la prima firmata da Conte, che, sì, che ci si aspetta? Anche la prima firmata da Tavecchio, se vogliamo. Ah, ecco, tra l'altro. Brutto per molti, compreso il neopresidente federale, Lotito al suo fianco ieri con la giacchetta della nazionale italiana che faceva un po' impressione. Comunque, prima Italia di Conte in campo con l'Olanda, 20:45, Bari, stadio esaurito, quindi grande attesa nella città che vuole molto bene ad Antonio Conte, una città che è sua. Un'Italia con molti reduci dal mondiale, a partire da chi giocherà in porta, cioè Sirigu e non Buffon, poi difesa con Astori, Bonucci e Ranocchia, un centrocampo a 5, De Scimio, Marchisio, De Rossi, Parolo, Candreva e la novità Zazza in attacco accanto ad Immobile. Questa è la prima Italia firmata da Antonio Conte. Dall'altra parte c'è l'Olanda, che resta comunque una super squadra, l'abbiamo visto anche agli ultimi mondiali. Dunque, comincia l'era Conte, per la verità è molto difficile negli ultimi anni vedere un commissario tecnico vincere al debutto. L'ultimo era stato Zoff nel 98, poi gli altri non c'erano mai riusciti. Vediamo se la fa Conte. Ci mobiliteremo contro il blocco dei salari degli statali, annuncia la CISL. Colpiti i soliti noti, è illogico, dice Camusso. Scuola ed è subito sciopero. I sindacati autonomi proclamano uno stop il 17, a due giorni dall'apertura. Mercati ed economie europee guardano la BCE, che oggi potrebbe annunciare le prime mosse per contrastare deflazione, bassa crescita, borse caute nell'attesa. La fecondazione eterologa, alle regioni approvano all'unanimità le linee guida. Il Careggio di Firenze parte questa mattina. Se l'Iraq chiede aiuto, la NATO è pronta, dice il segretario generale Rasmussen. Si apre oggi il vertice in Gran Bretagna. Al centro, naturalmente, anche le vicende ucraine. Stefania Giannini, ministro dell'istruzione, bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Salve, buongiorno. Salve. Allora, vogliamo parlare naturalmente con lei di questa riforma della scuola, che da quel che abbiamo capito è un work in progress, ci saranno questi due mesi di consultazione e che però viene accolto già da uno sciopero, abbiamo letto. Come accoglie la notizia? Io credo che la presentazione di un progetto educativo organico, perché di questo si tratta, per stipulare un nuovo patto educativo, come ha ricordato presentandolo il Presidente del Consiglio, deve dare il tempo e deve aspettarsi anche il tempo per una riflessione, per un esame accurato di un documento di 140 pagine che non improvvisa e non butta degli slogan sul tavolo, ma pensa a come dare agli insegnanti, agli studenti, alle famiglie italiane una scuola adeguata alle nuove sfide. Quindi lo sciopero dovrà concentrarsi, immagino, su alcuni punti di critica e affronteremo i punti di critica nello specifico. Senta, allora, a proposito dei punti di critica, c'è una cosa che balza un po' agli occhi di tutti in queste ore, no? Mentre varate un piano per la scuola che prevede assunzioni per 3 miliardi naturalmente nell'arco dei prossimi anni, il governo comunque blocca di nuovo gli scatti di anzianità degli statali. E la riflessione viene fatta un po', insomma, ma gli insegnanti statali sono, insomma, e si legge un po' di contraddizione in questo. Dove li trovate i soldi, ministro? Ma sa, io credo che l'obiettivo di una scuola finalmente adeguata è che anche sani le ferite del passato, quindi il piano assunzionale non è una sanatoria, il piano assunzionale è mettere la scuola in grado di funzionare al meglio con gli insegnanti di cui ha bisogno e chiudere la stagione della discontinuità didattica, delle supplenze già prevedibili all'inizio dell'anno ma non sostituibili con posti, diciamo, fissi e qualificati per i motivi che sappiamo. Tutto questo implica un impegno politico forte e determinato e quindi anche un impegno finanziario. La legge di stabilità sarà lo strumento in cui daremo le risposte che il Paese si attende. Immagino essenzialmente da tagli di spesa, insomma, no? Beh, io sono molto d'accordo con la visione che Matteo Renzi sta portando anche su questo capitolo della gestione del denaro pubblico, cioè decidere dove non spendere o spendere meno è una scelta politica, non è una scelta tecnica. Quindi un governo che ha un chiaro quadro delle priorità e quindi un chiaro quadro di dove serviranno più risorse deve avere un'altrettanta chiara visione di dove si dovrà risparmiare. Sarà un impegno congiunto di tutti i ministri, di tutte le forze di governo e naturalmente poi ci sarà anche una riflessione, mi trovo a Bruxelles con l'Europa, perché il grande piano di investimenti del presidente, del neopresidente Juncker di 300 miliardi dovrà chiaramente indicare anche da Bruxelles, anche dall'Europa dove si vuole investire. Noi ci aspettiamo che l'istruzione e la ricerca siano due settori fondamentali. Come si concilia il fatto che voi prevedete l'assorbimento di 148.000 precari con il fatto che prevedete assunzioni sulla base del merito? Cioè, io capisco che si debba sanare una situazione complessa, cioè c'è gente che è precaria nella scuola da anni, ma certo, insomma, c'è anche un ragionamento di questo tipo, non è che tutti questi 150.000 sono adeguati. Ma guardi, io vorrei ricordare, perché ho sentito questo ragionamento legittimamente posto in queste ore più volte, quindi mi permetto di ricordare un fatto che è noto a molti ma forse non a tutti. I 140.000 circa, 48.000 per l'esattezza, insegnanti che appartengono alle cosiddette graduatorie, no? Quelli da cui si attinge in misura cospicua ogni anno per riempire i posti in organico non coperti da insegnanti di ruolo, sono persone che insegnano nella scuola italiana e vi insegnano da 15 anni, quindi non è che noi scopriamo un vaso di Pandora trovando chissà che cosa, abbiamo insegnanti di qualità non inferiore e non necessariamente migliore degli altri 600.000 che sono in ruolo e la caratteristica che li accomuna a quelli già in ruolo è il fatto che non hanno una formazione garantita. L'Italia è uno dei pochi paesi europei che non forma i propri insegnanti e non li aggiorna con continuità e obbligatorietà. Questa è la vera novità, diciamo, il cambio delle regole del gioco. Ed è un altro aspetto che mi preme sottolineare, la fine anche di una piaga sociale che è quella del precariato, ma quella, mi permetto, riguarda le singole storie, no? Le singoli individui, ma un meccanismo diabolico che crea discontinuità ogni anno, annunciata e prevista, ma a cui non si può porre rimedio nelle classi italiane. Quindi se io ho un bambino a scuola, voglio sapere e ho piacere di sapere quale sarà l'insegnante che lo accompagna per il ciclo di studi. E questo l'Italia oggi non è in grado di farlo, non è in grado di farlo perché si è accumulato, lei lo sa bene, per mancanza di regolari concorsi, questo enorme quantitativo di precari. Senta, d'altra parte, sì, no, mi scusi, però prego, lei ha fatto una domanda, cerco di darle una risposta molto sintetica. D'altra parte, il fabbisogno, la copertura del turnover, ci consente, anzi direi ci impone di attivare il concorso nuovo subito, perché nel 2016 40.000 posti che saranno di nuovo scoperti siano a beneficio dei giovani. Quindi capisce, se noi tiriamo la riga e chiudiamo con un passato anomalo, siamo in grado di creare una fisiologia di concorsi regolare, quella che non c'è stata negli ultimi 20 anni. Mi sembra un meccanismo ineccepibile dal punto di vista formale. Sì, ha un po' della sanatoria, Ministro, però su questo concorderà, insomma, per come suona e per come ce l'ha detto. No, non concordo affatto, ma capisco che possa essere letto in questo modo nella complessità del provvedimento, anche in questo senso. Il Sole 24 Ore oggi in edicola sottolinea un altro problema, cioè dice di questi 148.000 che verranno assunti, 80.000 di fatto non hanno il posto per lavorare, nel senso che insomma si dice generalmente uno vede quale deve essere la sua pianta organica e su quella base decide le assunzioni. In questo caso invece appunto ci sono 80.000 docenti che nella sostanza non hanno classi, non hanno cattedre. Il rapporto non è stato letto dal Sole, credo, da quello che lei mi dice, nella sua interezza. Intendo dire che in una scuola che non fa nel regime di autonomia che pure la scuola italiana per legge già possiede, quello che la scuola di oggi deve fare, cioè non solo la lezione frontale di italiano, di matematica e di geografia, ma anche le molte attività che danno alla scuola quella dimensione aperta, quella dimensione completa che noi vorremmo, anche di cosiddetto tempo pieno che noi vorremmo acquisisse, è chiaro che il numero degli insegnanti coincide con l'orario previsto per quella materia e si ferma lì. E quindi le scuole italiane, pur potendolo fare sulla carta, non hanno mai potuto applicare il cosiddetto miglioramento dell'offerta formativa e l'arricchimento delle attività. Un corpo docente formato, valutato sulle performance non solo didattiche in aula, ma anche di attività in più, diciamo, extracurricolari come noi abbiamo immaginato, e quantitativamente in grado di sostenere questa nuova sfida, è quello che serve per la nuova scuola, non quella, lei fa riferimento alla vecchia scuola, non alla scuola a cui pensiamo. Ultima domanda, scusi se ritorno a bomba, i soldi glielo devo richiedere, perché insomma ho capito che dovete che tutto verrà scritto nella legge di stabilità, però insomma immagino che un'idea ce l'avrete già da dove ricavare questo denaro per finanziare la riforma sostanzialmente. Non è che si devono fare delle scoperte particolarmente, diciamo, misteriose. I soldi in uno Stato e nel bilancio di uno Stato si ricavano o dallo spostamento di altri capitoli o dall'arricchimento di alcuni capitoli di bilancio, e questo, come dicevo, verrà chiaramente espresso con gli strumenti che il governo possiede, il primo è la legge di stabilità nelle prossime settimane. Quello che è chiaro e forse è veramente il tratto rivoluzionario di questo governo è che per la prima volta, questo forse fa anche un po' scalfore, devo dire, per questo comprendo anche la reazione attonita, che per la prima volta, a mia memoria almeno, la scuola è al primo posto, non è la Cenerentola alla fine di un lungo elenco. Vi aspettate molte resistenze? No, io mi aspetto un approfondito dibattito e mi auguro anche una comprensione di un progetto che, ripeto, non è fatto di pezzetti assommati, ma ha una sua organicità funzionale nella totalità delle proposte. Grazie Stefania Giannini, Ministro dell'Istruzione. Grazie a lei, grazie a tutti. Buona giornata e buon lavoro. Noi restiamo sulla scuola, ma per tutt'altro argomento, un argomento di cronaca. Paolo Mancuso, Procuratore della Repubblica di Nola. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a lei. È la persona che ha seguito, ha portato avanti l'inchiesta che ha portato ieri all'arresto di tre maestre. Siamo in provincia di Napoli per maltrattamenti nei confronti di bambini. Allora, procuratore, noi abbiamo visto che avete raccolto tantissime prove, tra cui anche 66 prove video, se non sbaglio, mi sbaglio? No, è questo il numero indicato anche nel provvedimento del GIP. Senta, dall'idea che si è fatto, come mai nessuno si è accorto di niente? Ho letto che addirittura il preside ha una figlia che va nello stesso istituto, che sta nella stessa scuola. Guardi, guardi, è abbastanza incomprensibile, anche perché le violenze erano rivolte nei confronti di diversi ragazzi, bambini, non ragazzini. E ovviamente siamo nella fase diciamo in cui è stata pubblicata, resa pubblica l'indagine, e ci aspettiamo, e stiamo lavorando per questo, per avere qualche informazione in più sia su quello che le mamme sapevano di quanto avveniva nella classe, sia per capire se per caso qualcosa fosse trapelato anche agli organi ufficiali. Stiamo lavorando su questo, in questo momento ovviamente è finita la fase più segreta dell'indagine, adesso potremo estendere il nostro lavoro. Cioè anche lei giudica abbastanza strano che nessuno si sia accorto di nulla, insomma, no? Ma è abbastanza incomprensibile. È vero che nella sezione accanto a quella, alla B, dove sono successi i fatti, dove pure abbiamo lavorato sul piano investigativo, era una situazione era assolutamente regolare e pacifica. È vero che i bambini che alla fine risultano sottoposti a queste violenze sono sempre gli stessi e sono quelli forse un po' più vivaci. Quanti? Ma, quanti guardi, quelli più colpiti erano 4 o 5, ecco. Ma quindi questo forse ha limitato la reazione, stiamo cercando di capire perché veramente è sorprendente. Ecco. Questo è il quadro, e abbiamo letto che queste maestre si accanivano particolarmente su una bambina disabile. Beh, particolarmente era anche lei coinvolta, nel senso che veniva anche lei strattonata, veniva lasciata in disparte anche quando lei chiedeva di partecipare alle attività degli altri bambini, veniva invece relegata in un angolo, anche con una certa violenza. Non era destinataria di violenza fisica diretta, nel senso di non ha avuto ecchimosi, non ha avuto colpi diretti, ma veniva anche lei strattonata, veniva emarginata, diciamo, il contrario di quanto si potrebbe aspettare nei confronti di un bambino che in quelle condizioni deve essere invece socializzato al massimo. E vi siete fatti un'idea di da quanto tempo andassero avanti questi fatti, o almeno da quanto tempo queste tre insegnanti erano nella scuola, perché insomma... Loro erano a scuola già da anni e per la verità, guardi, da quello che io non so che pensare, perché da quello che risulta da questo video la situazione era fisiologica per loro, cioè lasciare i bambini accapigliarsi tra di loro, salire sui davanzali, reagire alla minima contrarietà con calci, con schiaffi e con strattoni, con insulti degradanti. Era, diciamo, il fisiologico della giornata di lavoro di queste. Quindi noi possiamo pensare che fosse una situazione che si trascinava da tempo, e che rende ancora più incomprensibile quello che lei diceva. Da anni addirittura, forse. Non lo so. Ma questo non lo può dire, non lo può dire certamente. No, assolutamente no. Però sembra fisiologico, sembra una cosa consolidata, un trattamento consolidato, una prassi che era quotidiana già da tempo, ecco. Grazie Paolo Mancuso, procuratore della Repubblica di Nola, per questi chiarimenti e questo racconto. Le auguro buona giornata. Ci mobiliteremo contro il blocco dei salari degli statali, annuncia la CISL. Scuola, il ministro Giannini ha effetto giorno, sui precari non è una sanatoria. Mercati ed economie europee guardano alla BCE, che oggi potrebbe annunciare le prime mosse per contrastare la deflazione. Sulla fecondazione eterologa le regioni approvano all'unanimità le linee guida. Se l'Iraq chiede aiuto, la NATO è pronta, dice il segretario generale Rasmussen. La borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao e bentornata. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, naturalmente, attesa della Banca Centrale Europea, più tardi ci collegheremo con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, per sapere che cosa ha deciso. Intanto, le borse vanno bene adesso. FTSE MIB più 0,7, FTSE Share più 0,6, Parigi più 0,38%, Francoforte lievemente in negativo. Sì, le borse partite hanno leggermente accelerato, erano partite caute, come dicevi, in attesa della riunione del Consiglio della Banca Centrale Europea, poi un rilancio di indiscrezioni su un programma di acquisto di ABS, di covered bond, all'esame appunto dell'odierno meeting della BCE, ha rotto il clima attendista, i mercati hanno accelerato leggermente, dicevamo Milano è la migliore, guadagna uno 0,9% grazie a un settore bancario tutto ben impostato, col Banco Popolare che fa più 3%, Intesa più 3%, Unicredit più 2%. Ed euro che quota 1,31,34 contro dollaro, grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore e a Isabella Tasso. Buona giornata, Isabella. Buona giornata. E adesso veniamo a un'altra vicenda di cronaca, quella della quale si sta parlando in queste ore e che riguarda l'ospedale di Potenza. Allora, l'audio che vi facciamo sentire in sottofondo, perché è radiofonicamente inutilizzabile, è di un medico che dice: io ho un cruccio, gli ho lasciato ammazzare deliberatamente una persona, sono responsabile della morte, non lui, ogni notte vado a dormire e penso a questa cosa. Cosa è successo? Che una donna viene sottoposta ad un intervento chirurgico, viene commesso un errore, il primario, stando alle prime risultanze dell'inchiesta, avrebbe completato l'intervento sulla paziente ormai senza speranze, e dice nella stessa sala operatoria che racconterà alla famiglia che l'intervento non è riuscito. L'omertà su questo caso dura finché non viene diffusa la registrazione della quale vi abbiamo fatto ascoltare un brano. Flavia Franconi, assessore alla salute e sicurezza della Regione Basilicata. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Allora, abbiamo purtroppo pochi minuti con lei, pochi minuti di spazio. Io vorrei capire se... avete intenzione, io so che dei medici sono stati già sospesi, avete intenzione di prendere ulteriori provvedimenti, insomma, magari anche una sostituzione della dirigenza dell'azienda ospedaliera? Allora, noi abbiamo avviato una inchiesta per capire come le cose si sono svolte, abbiamo chiesto lunedì che il direttore generale facesse un'inchiesta interna. Ieri la Regione ha nominato una commissione che in questo momento sta lavorando insieme agli ispettori del Ministero. Appena avremo le risultanze di questo lavoro della commissione, la Regione prenderà tutti i provvedimenti del caso. Che tempi prevede? Allora, massimo 45 giorni. Massimo 45 giorni. C'è il sospetto che qualcosa di questo genere possa essere avvenuto in altre occasioni? Allora, noi non abbiamo notizie di questo tipo, ma appena risolto questo problema andremo avanti e cercheremo di indagare. Certamente noi devo anche dire che la classe sanitaria della Regione ha operato bene in questi anni, cioè non credo che noi dovremmo anche far presente in questa situazione che la classe sanitaria della Regione Basilicata fino adesso ha lavorato in maniera adeguata agli standard. Allora, grazie Flavia Franconi, assessore alla salute e sicurezza della Regione Basilicata, quindi magari ci risentiremo tra un mese e mezzo, tra 45 giorni. Un'ultima, le auguro buona giornata. Una notizia prima di andare, lievemente in anticipo sulla viabilità, perché poi, come vi dicevo, torneremo a collegarci con Francoforte per capire che cosa è successo con la Banca Centrale Europea. La notizia è che un operaio di 54 anni, dipendente di una ditta della Global Service dell'appalto Ilva, è morto questa mattina travolto sui binari da un mezzo meccanico, e siamo all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto. L'altra notizia è una dichiarazione del Presidente del Consiglio Matteo Renzi al vertice NATO, dice: siamo pronti a rafforzare le sanzioni europee nei confronti della Russia. Abbiamo parlato del vertice NATO prima di andare al traffico, ebbene, Mario Platero ci porta proprio là. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Newport in Galles, al vertice NATO, al seguito del presidente Obama, Mario Platero. And make no mistake, Russia is paying a price.

Da Newport in Galles, al seguito del presidente Obama, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. Decisione per certi versi inaspettata dalla Banca Centrale Europea, è arrivata poco fa. Ci colleghiamo con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro, che cosa ha deciso il board della BCE? Allora, il board della BCE ha deciso di tagliare i tassi di 10 punti base, quindi il tasso principale passa da 0,15 a 0,05%, una decisione che ha due conseguenze. La prima è l'impatto sul cambio, l'euro è immediatamente calato sull'annuncio della decisione, perché evidentemente a questo punto i mercati si attendono che la BCE continuerà con una linea di politica monetaria molto accomodante, mentre magari le altre banche centrali potrebbero muoversi nella direzione di un rialzo dei tassi nei prossimi mesi. La seconda e forse più importante conseguenza è di dare un segnale molto chiaro che la BCE non intende cedere alla minaccia della deflazione, quindi con l'inflazione oggi allo 0,3% contro un obiettivo del 2% e aspettative di inflazione sui mercati che avevano cominciato ad abbassarsi sotto il 2%, la BCE intende essere attiva ed è probabile che nella conferenza stampa di Mario Draghi, che inizierà esattamente fra mezz'ora, ci siano altri annunci, soprattutto per quel che riguarda un credito più facile alle imprese attraverso liquidità per le banche. Allora, grazie Alessandro Merli, per corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, per questi aggiornamenti. Io vi aggiorno sull'andamento dei mercati, che come vi abbiamo detto a metà trasmissione erano positivi, hanno effettuato un vero e proprio balzo alla notizia del taglio dei tassi da parte della BCE, più 1,22% il FTSE MIB, più 1,12% il FTSE All Share, Parigi che guadagna lo 0,97%, Francoforte lo 0,24% e l'euro, come già ci diceva Alessandro Merli, che ha toccato i minimi dal luglio 2013, in questo momento a 1,30,44. Sul dollaro un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, Laura Faggin in assistenza in redazione, come sempre a tutta la redazione di Radio 24, effetto giorno a radio24.it per scriverci. Da Simone Spezia una buona giornata, ci risentiamo come sempre tra un attimo con GR24.